storie italiane. Il rosa. C'era una volta in un bellissimo regno una graziosa regina. Era felice, ma non aveva figli. Un giorno, mentre era nel suo giardino, guardò il cielo e pregò. Mia cara regina, non temere, le tue preghiere saranno esaudite. Oh Dio, grazie mille! Avrai un figlio con il potere di esprimere i desideri. Tu dovrai proteggerlo. Passarono alcuni mesi e finalmente il principe nacque. Grande era la gioia nel regno. 2 anni dopo, la regina portò il figlio al fiume per fare il bagno come al solito. La regina non era a conoscenza dei piani malvagi del cattivo cuoco. Iniziò invano a cercare il principe. Incapace di trovarlo, in lacrime andò dal re per dargli la cattiva notizia. Il cuoco raggiunse per primo il re e gli raccontò una bugia. Vostra grazia, la regina ha lasciato che le bestie prendessero il nostro principe. Il suo sangue si è sparso sul suo abito. Bugiarda! Hai dato nostro figlio alle bestie e sarai punita per questo. Il re, impazzito di rabbia e passione, bandì la regina a 7 anni nella torre della morte, senza cibo né acqua, lasciata a morire. Ma gli dei erano gentili con la povera regina, mandavano gli angeli a darle da mangiare. Passarono alcuni anni, il principe ormai era cresciuto. Era un ragazzo ben educato, anche se viveva immerso nel bosco, lontano dai suoi genitori, a lui sconosciuti. Il cuoco decise che era un buon momento per riscuotere. Mio caro ragazzo, tuo zio vuole che tu faccia qualcosa per lui. Sì, zio, cosa devo fare per te? Devi chiudere gli occhi ed esprimere un desiderio. Un castello grande e ricco in un regno in cui tu sarai re ed io un nobiluomo. Ma il cuoco voleva di più. Mio caro ragazzo, ora devi chiudere gli occhi e desiderare per te la più bella fanciulla, perché non dovresti essere solo. Così il principe trovò la sua anima gemella. Si innamorarono all'istante e ballarono, festeggiarono e vissero felici insieme. Il cuoco però aveva piani ancora più malvagi. Una notte il cuoco si trovava in una stanza piena di risate malvagie. Si guardò allo specchio e parlò a se stesso. Adesso ho tutto ciò che ho sempre voluto. Ora rimane solo una cosa. Il principe deve morire, perché se scopre dei suoi genitori sarò nei guai. Disse alla fanciulla di uccidere il principe nel sonno, altrimenti sarebbe stata lei a morire. Non lo ucciderò. Io lo amo davvero. Oh, dovrai ucciderlo o sarai tu a morire. Non posso far scoprire al principe dei suoi veri genitori e di come l'ho rapito. Quindi morirai se non farai come ti dico. Tu sei un uomo cattivo. Io verrò nella vostra camera al mattino e voglio vederlo morto. Sapevo che non avresti mai accettato, ho sentito tutto. Mi dispiace, amore mio. Temevo per la mia vita e per la tua. Ora pagherà per i suoi misfatti. Il principe desiderò che il cuoco si trasformasse in un barboncino nero con un collare d'oro e venisse nutrito solo di carboni ardenti. Ora devo tornare dai miei genitori. Non posso portarti così da loro. Quindi ti trasformerò in un fiore. Sì, amore mio. Il principe desiderò così che lei divenisse la più bella rosa e se la mise in tasca. Partì quindi per cercare i suoi genitori insieme al barboncino che trascinava dietro di sé. Dopo aver viaggiato a lungo, raggiunse il suo regno e grazie alle persone che incontrò al mercato, scoprì la triste storia della madre. Raggiunse la torre nella notte e desiderò una scala per raggiungere sua madre. Mia cara regina, sei viva e stai bene? Sì, angelo mio. Sono ben nutrita e soddisfatta. Grazie. Regina mia, sono io, tuo figlio. Sono tornato dalla foresta dove il cuoco disgraziato mi aveva confinato. Lui mi ha portato via e ha accusato te ingiustamente. Sono venuto per salvarti. Oh, mio divino figlio! Gli dèi hanno risposto di nuovo alle mie preghiere. Il principe radunò tutti i cervi e la mattina seguente andò a bussare alla porta del castello. Chiese di poter incontrare il re per offrirgli i cervi in dono. Grazie, bravo cacciatore, per avermi donato questi 200 cervi. Li ho molto graditi. Cosa vorresti in cambio? Vostra grazia, solo una festa con te e la tua famiglia. Espresse così un desiderio. Vorrei che qualcuno parlasse al re di mia madre ora. Vostra grazia, è una così buona occasione per controllare la salute della regina e invitarla. Sono passati molti anni. Mai ha dato mio figlio alle bestie. Maestà, questa è una bugia. Perché io sono tuo figlio e non sono stato preso dalle bestie, ma dal tuo cuoco disgraziato. Come posso crederti? Il principe sorrise e tirò a sé il barboncino. Espresse un desiderio e il barboncino si trasformò nuovamente nel cuoco che piangeva disperato. È vero, è tutto vero, l'ho fatto. Per favore, mio signore, abbiate un po' di misericordia. La mia avidità mi ha accecato. Mostro malvagio, confinatelo immediatamente nei sotterranei. Questa è una buona lezione. L'avidità è sbagliata. E così vissero tutti insieme, felici e contenti.